24 mattino di Alessandro Milan. Alle 7:22 minuti, buongiorno cari ascoltatori, siamo qui a chiudere la settimana di 24 mattino con il nostro Pietro Lacorte, anche lui a chiudere la settimana, sì, sempre un po' sui gomiti, ma ce l'ha fatta. E allora, di cosa parliamo nel nostro sondaggio? Torniamo sulla questione dei doppi incarichi dei politici. C'è una proposta di legge, ce la faranno i nostri eroi questa volta per impedire i doppi incarichi ai politici? Siete d'accordo con questa legge? Io ho visto adesso il sondaggio, votate su radio24.it, non era mai successo. Per il momento i nostri ascoltatori sono d'accordo, il 100% dei nostri ascoltatori. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:21 minuti. Voglio salutare il senatore Pancio Pardi dell'Italia dei Valori. Buongiorno senatore. Buongiorno. Lei fa parte anche della Commissione Vigilanza Rai. Parliamo un po' di TV. Allora, Santoro. Gioie e dolori. Gioie e dolori. Solo dolori, perché? Senta, ma oggi Santoro dice che praticamente in un'intervista al Fatto la sua trattativa con la 7 ha un nome e cognome di causa, il conflitto di interessi, cioè praticamente non va alla 7 per colpa di Berlusconi, cioè che è sempre colpa di Berlusconi. Beh, in questo caso mi sembra una cosa molto trasparente. Ah sì? Penso, ma sì, perché non ci sono motivi a quanto pare di natura finanziaria, no? Ci sono motivi addotti veramente strani, con un linguaggio un po' oscuro, da cui si capisce che sono motivi di natura editoriale, di gestione del programma, eccetera. Non si saranno trovati d'accordo. Agli occhi di un pubblico oramai abituato, la cosa ha un significato solo, cioè che la 7 è stata costretta a rinunciare al contributo del programma che porta più raccolta pubblicitaria in Italia, sì, sotto pressione del monopolista al governo. Ma perché come si fa ad arrivare a questa deduzione? C'è un precedente storico che io ricordo benissimo. Sì. Quando la 7 fece un contratto a Gad Lerner anni fa, e ad altri, ora mi ricordo gli altri, ma insomma mi ricordo che c'è stato un momento in cui la 7 puntava a risalire dal 2% dell'ascolto a qualche frazione in più, e si rivolse a dei professionisti noti sulla scena, sì, televisiva, tra cui ora mi ricordo Gadler, ma mi sembra che ce ne fossero altri. E che successe? E a un certo punto cosa successe? Successe che la 7 di punto in bianco ci rinunciò. Perché? Perché siccome la proprietà della 7 era della Telecom, e la Telecom dipende, in quel caso di Tronchetti, sì, Provera, i cui affari dipendevano dalla volontà del Presidente del Consiglio, perché le concessioni allora per questo, dipendevano dal Presidente del Consiglio, a un certo punto Tronchetti Provera si fece i suoi conti e disse: ma mi scusi, mi senatore, conviene rompere le scatole al monopolista televisivo, al governo? Però voglio dire, ma secondo lei c'è stata che cosa? Cioè Berlusconi ha telefonato a... Ma quello non lo no, so, non può anche darsi che non ci sia stato nemmeno bisogno di telefonare. Ma scusi, allora Saviano, che non è certamente filo governativo, è stato accusato di essere contro il governo, la 7 l'ha preso, allora perché non potrebbe essere... Quello mi fa piacere. E perché non poteva prendere? Cioè forse è stata solo una trattativa che è andata male, non si è conclusa tra la 7 e Santoro. Mettiamola in questi termini: se Santoro fosse stato zitto, io non avrei pensato di poter essere così esplicito, perché facendo parte della scena degli osservatori critici, sì, della situazione, non avrei potuto dire, puntare il dito. Ma visto siccome che Santoro l'ha detto Santoro, visto che Santoro non è stato zitto, ne traggo delle conseguenze. Lei trae conseguenze. Senta, ma Santoro potrebbe tornare in Rai, perché lui dice fino al 30 luglio, se il CDA della Rai dice facciamo anno zero, io faccio anno zero. Oggi un consigliere della Rai, De Laurentiis, dice in un'intervista Repubblica: la Rai riprenda Santoro. Se non sbaglio, anche Lioffredi, il direttore della, sì, Rete 2, a un certo punto si è espresso, ha detto che ci teneva moltissimo che Santoro ritornasse in Rai, cioè restasse, sì, in Rai. Sì, sì. Ma certo, direi che la dirigenza nazionale, cioè la nuova direttrice generale, la signora Lei, dovrebbe ragionare in maniera diversa da Masi. Come ragionava Masi lo sappiamo, ci sono le intercettazioni telefoniche con Bisignani e si vede chiaramente che Bisignani era quello che preparava le lettere di licenziamento per Santoro. Diciamo, Masi era etero diretto. Non scritte benissimo, evidentemente. Perché non hanno portato, non hanno sortito effetti. Non hanno sortito effetti. Bisignani che l'ha scritte male o è Masi che l'ha trascritte male? Invece io penso che la direttrice generale lei ha, diciamo, la collocazione e l'autorità per gestire in modo autonomo questa cosa. E siccome penso che il direttore generale soprattutto debba pensare alla redditività economica, economica, e siccome il programma di Santoro è quello che raccoglie più pubblicità, bisognerebbe assoluto, tutelarlo. Non senta, credo, senatore, che alla direttrice generale gli convenga rinunciare a una fonte lei, di finanziamento. Lei so che è uno combattivo, ma molti messaggi ci scrivono, guardi, alcuni ascoltatori molto ironici, guarda, piove qui, non so dove si trova questo ascoltatore, è colpa di Berlusconi, oppure c'è coda ad Almine, è colpa di Berlusconi. Non esageriamo. Se piove governo l'altro, lei sa, è un antico adagio, ma non era riferito a Berlusconi, era riferito al governo. Era una visione. No, perché anche Di Pietro ormai va a braccetto con Berlusconi, oddio, adesso a braccetto. Beh, no, ora non esageriamo, è Berlusconi che gli si è seduto accanto e non si sa che cosa gli abbia detto. Ma lei l'ha scoperto, gliel'ha chiesta Di Pietro? Lei è del suo stesso partito? No, io non ho incontrato Di Pietro da parecchio tempo, non gliel'ho chiesto. Lei che avrebbe fatto se Berlusconi si fosse seduto a fianco a lei? Io glielo posso dire con la massima sincerità. Sì. Io che non sono il capo del partito e che non ho nessuna ambizione da diventarlo, mi sarei alzato e me ne sarei andato. Però mi rendo conto che il mio comportamento sarebbe stato un po' fuori canone. Penso che siccome Di Pietro è il capo del partito e che ha doveri molto diversi dai miei, tutto sommato ha fatto bene a restare lì. Però forse non avrebbe dovuto, come posso dire, non che lui abbia alimentato le incertezze su quello che si sono detti, anche però perché lei non lo sa, essere un pochino più esplicito su quelli che si sono detti forse avrebbe giovato. Gli ho detto dimettiti, questo, anzi, sì, si dimetta, sì. Il fatto è questo, che poi altre fonti si sono esercitate a intorbidare. Sì, è vero, Di Pietro ha detto dimettiti, ha fatto bene a dirglielo. Però insomma, diciamo, la furbata di Berlusconi ha un atteggiamento tipico: quando si sente forte è arrogante oltre ogni limite, quando si sente debole gioca sulla cosiddetta simpatia. Io non capisco non capisco quelli che vedono della simpatia nel comportamento di Berlusconi, cioè gioca a fare il piacione. Allora, dato lì a fare questa cosa, secondo me bisognava fronteggiarla dal punto di vista pubblico, non alzandosi e andandosene, perché appunto il capo del partito non può farlo, però diciamo con una maggiore nettezza. Intanto io la ringrazio, senatore, per essere stato con noi. Buona giornata. Buongiorno. Senatore Pancio Pardi dell'Italia dei Valori. Ci continuano a chiedere: ho il mal di pancia, è colpa di Berlusconi, ci scrive Roberto da Bergamo. Si fa un po' il verso a quello che dice il senatore Pardi. In ogni caso, insomma, il tema l'abbiamo affrontato. Vogliamo parlare della proposta di legge che è stata presentata per vietare ai parlamentari i doppi incarichi. Non è la prima volta. Siete d'accordo con questa legge? Parliamo anche di tagli alla casta. L'ho letto nei giornali. Tutti i giornali dicono: c'è di tutto nella manovra. Tutto. Tutti i tagli possibili, tutte le riforme, tutte le possibilità. Quando si è dovuto toccare il capitolo tagli ai politici, si è dovuto fermare il Consiglio dei Ministri. I parlamentari sono andati in subbuglio. Hanno dovuto sospendere tutto e hanno deciso in pratica che ci saranno i tagli, ma dalla prossima legislatura. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. La legge per vietare ai parlamentari doppi incarichi. Io, tra l'altro, sul tema siete d'accordo? Ragazzi, succede una cosa che non è mai successa: il 99% dei nostri ascoltatori, votando su Radio24.it, dice sì. Se vorrete, parleremo anche un po' di tagli ai costi della politica, perché in questa manovra finanziaria c'è tutto, ma basta leggere i titoli, dal più sfumato Sole 24 Ore, costi della politica tempi lunghi, al titolo di Libero, la casta rinvia i tagli, a Il Foglio in prima pagina: stava per tagliare i vitalizi Giulio Tremonti, ma un sottosegretario anonimo del PDL dice in Parlamento erano talmente arrabbiati che avrebbero pugnalato Tremonti sull'atrio del Senato come Cesare. E poi c'è il Corriere della Sera che racconta di come il ministro Rotondi, che su questo tema è scatenato da giorni, abbia più volte citato in Consiglio dei Ministri, non certo immagino con tono di elogio, Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella, e autori della famosa casta. Tra l'altro saluto Sergio Rizzo del Corriere della Sera, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Poi ci spiegherai magari tra poco che effetto fa, che emozione fa essere entrati di fatto nel Consiglio dei Ministri, citato dal ministro Rotondi, che ha detto questa frase da cui la devo dire subito. Il ministro ha ancora parlato dei parlamentari, ha detto prendiamo 4.000 euro, molto meno dei dirigenti, i parlamentari alla fine sono dei poveracci che vivono in alberghi medi, mangiano male e vengono rimproverati dalle mogli. Quando lavoravi allo studio campavamo meglio. Questo ha detto il ministro Rotondi. Saluto l'onorevole Pino Pisicchio dell'API. Buongiorno Pisicchio. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Firmatario insieme all'onorevole Tabacci di questa proposta di legge che adesso ci spiegherà. Saluto anche Roberto Simonetti, deputato della Lega. Buongiorno Presidente. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti. Dico presidente perché anche presidente della provincia di Biella, perché la legge ora prevede una cosa un po' bizzarra, per la quale se uno è presidente di provincia non si può candidare al Senato, ma se uno è già senatore e parlamentare può candidarsi, fare il percorso inverso e andare a presidente della provincia o sindaco di una grande città. Questo, onorevole Pisicchio, voi volete a questo volete dire basta con questa proposta di legge? Sì, ma per la verità mi lasci dire una cosa, sì, molto semplice, non è che le leggi già non ci siano, attenzione, abbiamo di fronte a noi un testo unico addirittura del 1957 sulle cause di incompatibilità e ineleggibilità parlamentare, numero 361, per chi ami i riferimenti giuridico-formali. E abbiamo ancora una legge del 53, la numero 60, che rigorosamente indicano quali sono le cause di incompatibilità e di ineleggibilità. Sì, sì. Fra queste, per esempio, lei ha appena salutato un collega che saluto anch'io, quelle relative a parlamentari che svolgano anche la funzione di sindaci di comuni, sì, superiori, comuni superiori ai 20.000 abitanti. I comuni maggiori o presidenti della provincia. Che cosa è accaduto? Nel corso della tanto vituperata Prima Repubblica, la giunta delle elezioni di Camera e Senato, che per dirlo a chi non è tecnico è una sorta di tribunale interno della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, che stabilisce se i casi di incompatibilità rientrino o meno in quelli previsti dalla legge, combinando la sanzione della decadenza, che cosa ha fatto? Nella vituperata Prima Repubblica ha sempre detto una cosa: chi fa il deputato, faccia, chi fa il senatore non può fare, non può fare il sindaco, non può fare il presidente della provincia. Tenga conto, personaggi come Giorgio La Pira, un grande costituente, deputato, sindaco, eletto sindaco di Firenze, ha avuto lo sfratto, 15 giorni e via, così Emilio Colombo, eccetera, eccetera, eccetera. Se non che, arrivati alla cosiddetta Seconda Repubblica, nella 14ª legislatura, un famigerato giorno, il 2 ottobre del 2002, si è detto da parte delle giunte: attenzione, non è vero, è vero che la legge dice che chi è sindaco non può fare il deputato, perché c'è una causa di ineleggibilità, però non dice che chi è deputato non può fare il sindaco, E quindi per questa interpretazione c'è questa cosa bizzarra, effettivamente. Interpretazione bislacca, il cosiddetto lodo Cammarata, dal nome del sindaco di Palermo, che ancora insomma è in politica, da quel momento in poi si è data la stura a questa compatibilità. Per cui ci sono, c'è compatibilità di fatto. Tra l'altro registro che l'onorevole Tabacci, che è cofirmatario con lei, è anche assessore a Milano, e questa legge che è stata promossa prevede l'incompatibilità. Per cui insomma l'onorevole Tabacci propone una legge che, se dovesse essere passata, lo porterebbe a dover scegliere tra il Parlamento e l'assessorato a Milano. Presidente Simonetti, onorevole onorevole Simonetti della Lega, lei è uno dei 18, credo, che ha questa... Anche di più siamo, guardi. Un po' di più, insomma. Lei è presidente della provincia di Biella e parlamentare. Perché ha fatto il percorso, quello consentito dalla legge? Prima in Parlamento e poi presidente della provincia. E come la mettiamo? Cioè, lei dice la legge lo consente? Cosa? Guardi, posso? Sì. Guardi, io trovo bizzarro, la contestazione. Nel senso, le spiego perché... innanzitutto non capisco quale sia il delitto se uno non do più un carico. Secondo, lei ha parlato del taglio dei costi della politica perché la casta guadagna troppo. Okay? Questo sì, legato alla manovra. Perfetto. Lo sa che avendo i doppi incarichi lo Stato risparmia almeno 2 milioni di euro all'anno perché il doppio incarico non viene pagato? Perché lei prende uno stipendio. E noi svolgiamo tutti i presidenti e i sindaci gratuitamente il lavoro di presidente o di sindaco? Allora, se lei spiegasse, penso l'abbia fatto, ai suoi radioascoltatori, penso che non ci sia... Non c'è il doppio stipendio, quindi lei dice addirittura facciamo risparmiare. Secondo me il 99% scenderebbe. Direi di più, io trovo bizzarro coloro che hanno il doppio incarico e dicono che risolverebbero questa questione se venisse approvata la loro legge. Se questi deputati che hanno il doppio incarico si sentono in difficoltà a gestire questa situazione, che si dimettano senza aspettare che qualcun altro voti la propria legge per lavargli la coscienza. Come per esempio l'onorevole Tabacci, se farei la mosca cocchiera. In ogni caso, la mosca cocchiera può farlo benissimo dimettendosi senza presentare una proposta di legge. Questo è vero. Lavarsi la coscienza presentando proposte di legge, guardi, ce ne sono migliaia all'anno di proposte di legge. Questo è vero. Sergio Rizzo, allora, tanto vogliamo prenderla da dove? Dall'emozione di essere citato in Consiglio dei ministri, ho ancora i brividi dal ministro Rotondi, che dice siamo dei poveracci, però invece il presidente della provincia di Biella, onorevole, dice dovreste quasi ringraziarci perché facciamo risparmiare allo Stato, visto che prendiamo uno stipendio e non due. Non lo so, secondo me non sono questi risparmi. Io spenderei volentieri 2 milioni in più per pagare altre persone che facciano il lavoro dell'onorevole Simonetti o di altri, diciamo, persone che hanno doppi incarichi, però diciamo vorrei vedere più efficienza nel Parlamento, più efficienza anche nelle istituzioni. Penso che sarebbe anche giusto pretenderlo da parte dei cittadini, però qui la questione dei doppi incarichi è una questione molto controversa perché, come giustamente veniva ricordato, dal punto di vista formale non c'è assolutamente nulla che non va, è tutto a posto, no? Il problema è che spesso e volentieri questo meccanismo del doppio incarico legale, diciamo così, no? Ha consentito, è stata una specie di tana libera tutti, che ha consentito altre cose, no? Per esempio, faccio il caso di parlamentari che tranquillamente continuano ad avere ruoli di incarichi importanti anche in aziende pubbliche. Sì, ci sono. Certo, ci sono. Certo. Ci sono. Quindi questo, da un certo punto di vista, il fatto di stabilire delle regole di incompatibilità non ha soltanto nella questione in sé, non ha soltanto degli effetti nella questione in sé, ma proprio una ripercussione più generale nell'etica della politica. Io credo che chiunque faccia il sindaco di una città di 300.000 abitanti come per esempio Catania oppure di 180.000 abitanti come per esempio Brescia o Torino, anche Fassino, o Torino per esempio, ecco, giusto per fare anche dei casi di centrosinistra, non possa svolgere al tempo stesso in modo coerente l'incarico parlamentare così come questa istituzione richiederebbe, almeno questo è il mio punto di vista. Ma d'altra parte non sono il solo a pensarla così, non nutro alcun accanimento, stia tranquillo, diciamo Simonetti e gli altri onorevoli per questo tipo di cose. Sono pronto anche a riconoscere che ci sono ordinamenti all'estero che invece consentono i doppi incarichi tranquillamente, per esempio in Francia è vero. C'è una c'è un'abitudine addirittura di alcuni ministri, no? di fare i sindaci delle grandi città. Penso che il sindaco di Nizza sia un ministro, se non sbaglio. Sì, è vero, il sindaco di Nizza è anche un ministro molto vicino a Sarkozy. Ma che ne pensi della vicenda Rotondi, che da giorni sta battendo su questo tasto, poi si è battuto? Perché questa cosa, i parlamentari sono vivono male, dei poveracci? Cioè, dove vuole portare, facendo dichiarazioni che chiaramente sono dire impopolare un eufemismo? Ma secondo me non è che gliel'ordina il dottore, innanzitutto, no? Perché non è che uno fa il parlamentare perché viene costretto a fare il parlamentare. Sembra quasi, dalle parole del ministro Rotondi, che ci sia qualcuno con la pistola puntata che ti ordina di fare quel lavoro lì. Ma poi non capisco queste osservazioni. Io vorrei sapere quanti italiani guadagnano quello che guadagnano i parlamentari, sinceramente. Lui dice come i dirigenti guadagnano. Ma sì, ma sì, voglio dire, però ci sono anche, se la mettiamo sul piano delle responsabilità, allora ci sono dei dirigenti di aziende pubbliche e private che hanno responsabilità enormemente superiore a quelle del singolo parlamentare, che spesso e volentieri, molti di questi lo sappiamo, cioè, se sbagliano molti, vengono cacciati. Alcuni, esatto, dico, alcuni di questi svolgono, diciamo, un'attività limitata. Abbiamo visto, ci sono casi di assenze alle votazioni del 90% o anche più, quindi da questo punto di vista, sinceramente, è un'osservazione che non comprendo. Non capisci dove voglio arrivare. No, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi riparto dall'onorevole Pisicchio, insomma, che mi sembra di poter dire, accusato dall'onorevole Simonetti anche di un po' di voler fare un po' di demagogia, la traduco così, con questa proposta di legge. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? Allora, onorevole Pisicchio, effettivamente l'obiezione dell'onorevole Simonetti, deputato della Lega e presidente della provincia di Biella, che dice: ma scusate, ma invece di fare una legge, perché Tabacci non si dimette, per esempio? Lasci uno dei due incarichi, poi la legge, vabbè, si vedrà la proposta di legge, c'è o no. Però se tanto dà fastidio questa cosa, cominci a dare un buon esempio. Ma intanto questa nostra battaglia in giunta delle elezioni, il collega sa bene, la stiamo facendo da tempo, sconfitti, perché la maggioranza è sempre sulla linea della compatibilità, ma la facciamo da tempo. L'onorevole Tabacci, che certamente non ha bisogno della mia difesa, è uno dei colleghi più rigorosi, peraltro, nell'ambito parlamentare, pone un problema nuovo, quello della compatibilità, non ai sensi dei principi generali delle leggi che ho citato, ma ai sensi di un principio nuovo, quello dell'articolo del rinnovato titolo V della Costituzione, cioè l'assessore risponde ad una ragione territoriale, mentre il deputato, ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione, risponde solo all'intera nazione, e questo è l'elemento. No, ma infatti nella vostra proposta di legge non si può essere parlamentare e ricoprire, leggo, la carica di assessore nei comuni capoluoghi di provincia, quindi per esempio Milano come Tabacci. Però perché non dà il buon esempio e dice, visto che è così, in attesa della legge, sicuramente lo darà quando questa legge procederà. Io però mi permetto, poi porrà la questione, la porrà direttamente al mio collega. Mi permette però di dire una cosa, in qualche modo veniva affacciata da Sergio Rizzo, che saluto. Nessun medico ci ha detto di fare i parlamentari. Allora, se facciamo questa attività, cerchiamo di rispondere alla logica che il Costituente inserì in Costituzione, cioè il parlamentare deve svolgere questa funzione in chiave esclusiva nell'ordinamento italiano, poi in quello francese, in quello di altri paesi. In Italia dovrebbe essere così. In funzione esclusiva. Perché ci sono incompatibilità? Per due ragioni essenziali ed una terza aggiuntiva. La prima ragione è che non si deve consentire di svolgere una funzione, un mandato elettivo su due dimensioni diverse, quella statale e poi quella degli enti locali, perché evidentemente questa, l'abbiamo detto fino a questo momento, questa dimensione nuoce ad entrambe le attività. La seconda è quella legata al conflitto di interessi. Chi svolge un'attività, esatto, soprattutto negli enti, e la terza? Negli enti privati pubblici. La terza, che è legata a queste due, suggerisce ed indica un'attività politica parlamentare che sia a servizio totale del Parlamento. Sì, l'esclusività di questo. Onorevole Simonetti, senta, l'obiezione di Rizzo che dice pagheremmo volentieri anche più soldi per un ricambio generazionale, un ricambio della politica, lasciare spazio anche ad altri. Insomma, secondo me... Il commento è solo per fare la polemica del doppio incarico, perché non si può dire che bisogna tagliare il costo della politica e poi dire ma sì, però 2 milioni va bene se li spendiamo comunque. Sul ricambio, guardi, io sono presidente deputato, ho 37 anni, il gruppo della Lega ha il 50% di nuovi deputati, quindi il ricambio a prescindere dalle incompatibilità si può fare benissimo. Io volevo dire, non voglio accusare di demagogia Pisicchio, perché ha sempre tenuto questa linea e ammetto la sua coerenza, perché ne abbiamo già discusso quando fu vagliata la mia compatibilità. Volevo però dire che effettivamente questa incompatibilità non nacque tanto per i problemi che hai evidenziato, che sono comunque da un certo punto di vista plausibili, l'onorevole Pisicchio, ma nacque per il fatto che all'epoca c'era l'elezione a parlamentare attraverso il voto di preferenza, proporzionale, sì, con preferenza. Sì, sì. Allora si stabilì che il sindaco o il presidente di un certo sindaco di superiore a 20.000 abitanti poteva influenzare attraverso l'incarico istituzionale ricoperto l'elettorato, quindi doveva dimettersi 6 mesi prima della data di fine legislatura per non influenzare l'elettorato, ma ora con questa legge elettorale non c'è più nulla da influenzare. Non c'è più l'influenza. Quindi lei dice, quindi a questo punto... Di più. Il fatto che sia un giornalista, che secondo me fa parte anche... un giornalista, i commentatori fanno anche loro parte di una determinata casta, che è quella la nostra casta dei giudicanti, secondo me dovrebbe essere molto più riverente rispetto a un'altra casta molto più importante, che è quella degli elettori, perché io non sono entrato... Ma guardi che gli elettori, io temo che siano più dalla nostra parte, non so, votato. Sergio Rizzo, sei parte... No, ma la tengo su votato. Simonetti, siamo nella casta dei giudicanti, non lo so. La vera casta, da tenere in riferimento, sono i cittadini. Ma i cittadini, guardi che i cittadini temo che... Mi hanno votato, io non sono certo. Con i mitra nei bar e dire dovete votare per Sergio, sentiamo. No, ma io non capisco, prima si dice che la legge elettorale praticamente non c'è più legame con gli elettori, dopodiché, cioè, qual è il discorso degli elettori? Francamente non ho capito. Ma dice che siccome l'hanno votato, dice Simonetti, ha puntato la pistola alla tempa. Lui stesso riconosce che sostanzialmente non c'è legame con gli elettori, cioè potrebbe essere Simonetti o qualunque altro... In provincia, allora facesse il presidente della provincia, voglio dire, se il punto è il rapporto con l'elettorato, e giustamente Simonetti ci tiene tanto a questo, allora mantenesse l'incarico che gli consente un rapporto diretto con gli elettori. Dopodiché viene a criticare me perché faccio parte di quale casta? Non ho capito. La casta dei giudicanti. In Italia c'è ancora libertà di espressione. Grazie a Dio, Simonetti, la questione della casta dei giudicanti, non l'ho capito. Cioè, perché scriviamo, perché quindi giudicante no, per perché, quello. Io non mi permetto di giudicare, voglio dire che sembra che ci sia tutta l'Italia contro i doppi incarichi quando io sono stato votato e sarà mia premura e del partito che mi esprime capire se la posizione di doppio incarico sarà letta positivamente o meno dai cittadini. Però lei è stato votato alla provincia, ma è stato nominato come tutti in Parlamento, cioè nominato. Ecco, in ogni caso, va bene, io vi devo salutare, perché altrimenti sforo Pietro La Corte qua, già partito con la sigla, è un disastro. Se si sfora qua in radio arrivano lì, sì, con la pistola alla tempia. Allora, io ringrazio l'onorevole Pino Pisicchio dell'Alleanza per l'Italia, l'onorevole Roberto Simonetti della Lega, presidente della provincia di Biella, e Sergio Rizzo, inviato del Corriere della Sera. E allora, questo è Italia la casta. Pare che i parlamentari fossero pronti ad accoltellare Giulio Cesare Tremonti se faceva passare questo all'entrata del Senato. Ci fermiamo. Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione, Pietro Lacorte in regia per l'appunto. Alle 7:20 lunedì ci siamo.